insieme agli altri, lui perde sempre, ha perso anche con lei. Ladro e poeta, anche in amore, lui no, non cambia mai. Quando la sera tornava a casa, sconfitto più che mai, lei lo guardava, lui non capiva, pagava solo lei. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, è vuota la sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Ora sei vinto, tu sarai solo quando ti pentirai. L'ultimo sbaglio piega l'orgoglio, ma è troppo tardi ormai. Senza ragione, senza rancore, cede al destino lui. Ed ogni sera, tornando a casa, parla una sedia ormai. Ciao cara, la sua stanza. Ciao cara.